Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se mi chiede un'opinione circa l'uso della mascherina, questa è un'opinione personale, io le dico che se vado per strada o sul marciapiede non uso la mascherina, se devo entrare in un luogo pubblico in cui ci sono diverse persone e non c'è sufficiente distanziamento sociale, allora tendo ad utilizzarla e ho piacere che altri la utilizzino. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da diverso tempo che è scoppiata questa pandemia di coronavirus, però ancora questo dibattito, come dicevo anche ieri sera, sulle mascherine, obbligatorie o non obbligatorie, cioè al di là delle ordinanze naturalmente delle regioni che se le rendono obbligatorie, però sulla effettiva necessità di mettere le mascherine quando si va in giro per andare o al lavoro oppure per andare verso un negozio, verso la macchina, insomma fuori, come diceva adesso, lo avete sentito, Giovanni Rezza, che è dell'Istituto Superiore di Sanità, diverse volte è stato qui ospite Effetto Notte, e per qualcuno va messa e per qualcun altro no. L'OMS oggi stesso, come anche ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha confermato che non ritiene che sia assolutamente necessario mettersi la mascherina quando si va per strada. Dice è comunque certo un presidio di sicurezza, ma meglio lasciarlo allora agli operatori sanitari. Insomma, continua, diciamo, a esserci così un po' di nebbia sull'argomento. Comunque, per quanto riguarda per esempio la Lombardia o la Toscana o l'Alto Adige, l'obbligatorietà c'è adesso di portare la mascherina quando si esce. Ci occuperemo naturalmente di moltissime altre cose, tutte legate inevitabilmente alla pandemia di coronavirus, però con una chiusura che ci dà un pochino più di speranza, di respiro verso il cielo. Parleremo della superluna che ci sarà tra stasera, in queste ore praticamente, e stanotte, anche per capire come meglio osservare questa bellezza che ci possa distrarre almeno per qualche attimo da questo virus così invasivo, invadente, stravolgente delle nostre vite. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. E poi, se volete, durante il giorno, per alcune anticipazioni, il Twitter è Roby con la Y, lineetta bassa Giordano, altrimenti quello della diretta, durante la diretta di Effetto Notte. Possiamo partire. L'epidemia di Covid-19 in Italia: sono complessivamente 94.067 i malati, il numero delle vittime è arrivato a 17.127, mentre sono 24.392 guariti. Rallentano ancora i contagi e le persone in terapia intensiva. Finalmente si intravede la discesa, fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, ma niente tana liberi tutti. La prevenzione, l'annuncio in Lombardia, ha individuato un test sierologico affidabile, tra due settimane consentirà di dare la patente di immunità. Il coronavirus nel mondo: sono oltre 4 miliardi le persone confinate, più della metà della popolazione mondiale, raggiunta quota 76.000 vittime. Il governo britannico è sotto i colpi del virus, nella Svezia del tutto aperto, oltre 100 morti in un solo giorno. E negli Stati Uniti il New York Times rivela: Trump già sapeva a gennaio dei rischi, un memo lo avvertiva di agire o l'America sarebbe rimasta indifesa. E a Wuhan intanto termina il lockdown dopo quasi 3 mesi. Sport anche per la Formula 1 e MotoGP, inizio stagione sempre più lontano e la Mercedes ora produce respiratori per il sistema sanitario inglese. Spazio e bellezza tra stasera e stanotte, occhi al cielo per ammirare la superluna. Partiamo quindi dalla situazione determinata in Italia dal coronavirus. Sempre con i dati aggiornati dalla Protezione Civile, si registra un calo sensibile dei nuovi malati per coronavirus. Nel nostro paese sono complessivamente 94.067 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 880, vale a dire meno della metà dell'incremento di lunedì, quando erano stati 1.941. Oggi si registra una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri e l'incremento più basso registrato dal 10 marzo, ha detto il capo della Protezione Civile in conferenza stampa Angelo Borrelli. Il numero complessivo dei contagiati, quindi comprese le vittime e i guariti, è di 135.586 in Italia. Le vittime sono 17.127, con un aumento rispetto a ieri di 604, mentre sono 24.392 le persone guarite, 1.555 in più di ieri. E Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, che avete sentito all'inizio sulle mascherine, ha detto: finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione di nuovi casi nella curva epidemica. Dopo una fase di plateau sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere verso il basso, ma aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo, l'ha detto oggi durante la conferenza stampa della Protezione Civile. Sentiamo. Forse questa è una prima battaglia che si sta in qualche modo affrontando in maniera con qualche successo. Speriamo che questo sia duraturo, ma teniamo conto che bisogna continuare a mantenere rigorosamente tutte le misure di distanziamento sociale che vengono raccomandate dalle autorità sanitarie, perché ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione virale. E poi lo avete sentito sulle mascherine, che cosa ha detto all'inizio? Vado a sentire di effetto notte. Poi l'annuncio in Lombardia: è stato individuato un test sierologico affidabile, tra 2 settimane consentirà di dare la patente di immunità. Sentiamo Rezza anche su questo. Fino ad ora le caratteristiche dei test che sono stati valutati non sono stati proprio del tutto soddisfacenti, nel senso la sensibilità e la specificità non era del 100%, ecco, ma ben lungi dal 100%, per cui chiaramente bisogna, questo è il motivo per cui si stanno valutando, il motivo per cui il San Matteo di Pavia è uno dei centri più attivi sicuramente in questa valutazione, però naturalmente anche su questo dobbiamo adesso vedere i risultati ed esprimere dopo e vedere quanto effettivamente le caratteristiche di questo test, come di altri, siano valide. E a proposito di fase 2 di possibile ripartenza, oggi c'è stato un incontro tra il Presidente del Consiglio Conte e i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico, quindi si è appreso che l'orientamento sarebbe questo, cioè sarà in 2 step, in 2 momenti la fase 2. Il primo riguarderebbe piccole aperture per le attività produttive, mentre il secondo momento interesserebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite. In ogni caso non sarebbero ancora state ipotizzate delle date e la linea ribadita sarebbe quella della gradualità e prudenza nelle riaperture. E sono state oltre 10.000 le persone sanzionate ieri durante i controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus, oltre 270.000 quelle controllate, e nei prossimi giorni la polizia di Pavia avvierà un programma di sorveglianza dall'alto con l'uso di droni, controlli che saranno poi particolarmente intensi soprattutto durante le festività pasquali. E salgono a 12.681 in Italia gli operatori sanitari contagiati dal Covid-19, a renderlo noto il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Nelli, sulla base degli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità. E con la morte di altri 5 professionisti sale a 94 il numero complessivo dei medici che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Anche gli infermieri, donne e uomini, pagano un alto tributo in termini di vite, 26 dall'inizio dell'epidemia, ed è la categoria sanitaria con il maggior numero di positivi, il 52% di tutti gli operatori. E gratitudine e riconoscenza è arrivata dal capo dello Stato Mattarella nella giornata mondiale della salute a medici e infermieri. La Regione Lombardia avvia una commissione d'inchiesta sui 27 ospiti al Pio Albergo Trivulzio, la più grande struttura geriatrica d'Italia, morti in questi giorni. Poi ne parleremo di questa commissione d'inchiesta. Guido Bertolaso, lo chiedeva ieri anche un'ascoltatrice, ex capo della Protezione Civile, che ha inizialmente diretto i lavori per l'ospedale della Fiera di Milano, oggi, che era stato poi ricoverato, ha detto: oggi sono stato dimesso dal San Raffaele, ringrazio tutti i medici, gli infermieri, orgoglio del nostro paese, uomini e donne, dice, che combattono in prima linea. E un alto funzionario dell'OMS, Richard Brennan, ha sottolineato oggi che allo stato delle conoscenze attuali si deve affermare che il coronavirus può rimanere sulle superfici solo per alcune ore, quindi non per giorni. Inoltre non ci sono prove che animali domestici come cani e gatti possano trasmettere il Covid-19 all'essere umano. La Regione Toscana ha emanato un'ordinanza in cui invita i soggetti in isolamento a casa, positivi quindi al coronavirus, ad accettare di trasferirsi temporaneamente in un albergo sanitario dove saranno seguiti quotidianamente da medici e infermieri, eventualmente di dichiarare esplicitamente un loro eventuale diniego. Lo ha annunciato in un videomessaggio il presidente della Toscana, Enrico Rossi. E adesso all'estero, oltre 4 miliardi di persone in 100 paesi o territori sono obbligati o invitati a stare in casa per contenere la diffusione del coronavirus, secondo un conteggio dell'agenzia France Press. Si tratta di oltre la metà della popolazione mondiale, il 52%, valutata dall'ONU nel 2020 a 7,79 miliardi di persone. raggiunta quota 76.000 vittime nel mondo, secondo le ultime rivelazioni e rilevazioni della Johns Hopkins University. In Spagna il numero delle vittime sale a 13.798, il governo britannico è sotto i colpi del virus, nella Svezia del tutto aperto, oltre 100 morti in un solo giorno. L'incubo coronavirus sbarca in Svezia, che ha mantenuto sinora tutto aperto, sortendo 114 vittime solo nelle ultime 24 ore. Quasi 8.000 casi positivi, la Finlandia ha rafforzato i controlli al confine svedese. La Germania sfiora ormai 100.000 contagiati e la Spagna, con 750 vittime in più in un giorno, vede salire il totale dei morti a 13.800. E mentre la Francia, con i suoi 6.500 decessi, giudica prematuro parlare di fine confinamento, qualcuno prova a ripartire. Lo fa l'Austria, che dopo Pasqua riaprirà tappe di esercizi commerciali, e la Danimarca, che invece farà tornare i bambini negli asili nido e nelle scuole elementari. Impennate di vittime dopo giorni di rallentamento nel Regno Unito, 786 nelle ultime 24 ore, quando il paese è in ansia per il suo premier ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni sono stabili e le cure standard, tranquillizza Downing Street, ma c'è chi si chiede chi prenderà le decisioni in questo momento delicato, visto che il passaggio di poteri da Boris Johnson al ministro degli esteri Dominic Raab si limita per ora solo a pochi compiti ordinari. Attraversando l'oceano, nuovo triste record di decessi negli USA, dove sono morte 1.150 persone in 24 ore, per un totale che sfiora quota 11.000. I contagiati sono oltre 360.000. E mentre, come annunciato, il Giappone ha dichiarato lo stato d'emergenza per 7 delle 8 prefetture del paese, per la prima volta in Cina non è stato registrato alcun decesso. I 32 casi di contagio sono tutti risultati importati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma nel mondo si stimerebbero diverse decine di milioni di casi. In realtà, in media, appena il 6% delle infezioni da nuovo coronavirus è stata rilevata nei vari paesi del mondo, portando a un'impressionante sottostima dei casi, che ammontano certamente a diverse decine di milioni in tutto il mondo. Lo rivela uno studio condotto da Christian Bommer e Sebastian Vollmer dell'Università di Göttingen in Germania e pubblicato sulla rivista The Lancet Infectious Disease, basato sull'analisi della qualità dei dati riportati dai vari paesi, e questo risulterebbe a seconda dei tamponi fatti, secondo questa ricerca. Stati Uniti, Donald Trump fu messo in guardia sui rischi e sull'impatto economico della pandemia già a fine gennaio, quando il presidente americano ancora minimizzava la portata dell'emergenza coronavirus. Lo riporta il New York Times, poi ci collegheremo anche con gli Stati Uniti. Passiamo ai mercati, chiusura positiva per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude in rialzo di oltre il 2% nell'attesa delle decisioni dell'Eurogruppo sul pacchetto di aiuti economici. Eurogruppo riunito a Bruxelles, e poi decisioni che cercheremo di sondare nel corso di questa puntata. L'Europa quindi cerca una non facile intesa per aiutare i paesi maggiormente impiegati dall'emergenza coronavirus. Le imprese italiane intanto incassano il decreto liquidità approvato ieri sera dal governo. Un provvedimento, quello sulla liquidità, approvato dal governo, accolto positivamente dal mondo produttivo, che punta il dito però sulle tante incognite del testo, tra tutte quella dei tempi di accesso alle risorse, visto che anche laddove la garanzia pubblica arrivi al 100%, si dovrà comunque aspettare l'istruttoria della banca. Al sistema del credito si rivolge allora il sottosegretario all'economia Baritta, intervenuto a Radio 24. Ovviamente a questo punto c'è un ruolo delle banche, bisogna che le banche diano una mano e siano molto coerenti con quanto il decreto ha deciso. Dubbi delle imprese anche su come interpretare le soglie di fatturato. All'economia italiana occorreranno 2 anni per tornare ai livelli di PIL stimati fino a gennaio scorso, indica intanto il focus Censis Confcooperative, così il presidente Gardini. Abbiamo bisogno di snellire le procedure affinché le risorse siano riscontrabili ed esigibili immediatamente nel minor tempo possibile. Primi numeri dal sistema del credito intanto sulle moratorie sui finanziamenti: 100.000 le richieste ricevute solo da Unicredit per un volume di 10 miliardi, Lombardia in testa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il decreto liquidità libera 400 miliardi per aiutare le imprese piccole, medie e grandi messe in crisi dall'emergenza coronavirus. 200 miliardi sono per il mercato interno, altri 200 sono invece destinati al sostegno dell'export. Il meccanismo che garantisce liquidità alle imprese è incentrato sulle garanzie pubbliche, garanzie concesse attraverso la SACE sui prestiti erogati dal sistema bancario. La garanzia coprirà tra il 70 e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni, fra le quali c'è quella dell'impossibilità di distribuire i dividendi per 12 mesi da parte dell'impresa beneficiaria. La garanzia sarà al 100% solo per partite IVA, IVA, artigiani e microimprese. Il decreto liquidità interviene poi sul fisco e sospende i versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta alle sospensioni già previste con il decreto Cura Italia. Il provvedimento inoltre rafforza la Golden Power, ossia i poteri speciali del governo per proteggere le imprese strategiche da scalate ostili. Lo scudo sarà ampliato a molti settori, dall'alimentare all'energia, dalle banche alle assicurazioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'INPS fa intanto sapere che sono oltre 4 milioni le domande arrivate per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia, 3,3 milioni le richieste per le indennità di 600 euro dei lavoratori autonomi. Per cassa integrazione e assegno ordinario sono arrivate oltre 248 mila domande. Poi invece un provvedimento che riguarda le famiglie: con una circolare l'INPS ha fatto sapere che è stato esteso fino al 13 aprile il congedo parentale previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti e i collaboratori iscritti alla gestione separata. La norma prevede la possibilità di utilizzare nel complesso 15 giorni di congedo con un'indennità pari al 50% della retribuzione. E mentre il governo cerca di mettere in atto strumenti per fronteggiare la crisi economica, arrivano i dati dell'Istat a confermare che saranno tempi duri. Una crisi senza precedenti per famiglie e imprese, già a marzo più profonda di quella del 2008. L'Istat lancia l'allarme sullo shock coronavirus per l'economia italiana. Secondo l'Istituto di Statistica, la limitazione delle attività produttive coinvolge il 34% della produzione e il 27% del valore aggiunto. 2,2 milioni di imprese, che rappresentano il 49% del totale. Se il lockdown sarà esteso anche a maggio e giugno, viene calcolato la riduzione dei consumi sarebbe del 9,9%. Del 4,1 se limitato alla fine di aprile. Il lockdown delle attività produttive, viene sottolineato, ha amplificato le preoccupazioni e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria, generando un crollo della fiducia di consumatori e imprese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la cronaca che riguarda sempre il coronavirus e riguarda anche tante altre malattie, anche gravi, che naturalmente non è che non ci sono con la presenza del Covid-19. L'emergenza coronavirus infatti ha rappresentato un vero e proprio tsunami per i reparti di oncologia nel nostro paese. Ben il 93,5% dei centri è stato costretto a ripensare l'attività clinica. L'organizzazione complessiva ha retto l'urto della pandemia, visto che per il 63,7% degli oncologi gli ospedali hanno garantito la continuità terapeutica, ad esempio con canali comunicativi alternativi come le videochiamate, e per il 58% i centri hanno saputo gestire le risorse disponibili in maniera efficiente. E poi questa notizia che riguarda uomini al volante, altro che donne al volante: sono i maschi il pericolo principale sulle strade, lo ha dimostrato uno studio pubblicato dalla rivista Injury Prevention, secondo cui se un maggior numero di donne facesse lavori ora considerati tipicamente maschili come l'autista, ci sarebbero meno incidenti. I ricercatori hanno usato i dati relativi agli incidenti stradali in Inghilterra tra il 2005 e il 2015, guardando a 6 diverse categorie di veicoli: biciclette, auto, furgoni, bus, camion e moto, calcolando il rischio per chilometro percorso di provocare un incidente che coinvolga gli altri utenti della strada. In 5 delle 6 categorie hanno concluso i ricercatori: gli uomini sono molto più pericolosi. E poi Giovanni Ferrero, parliamo di Paperoni. Giovanni Ferrero, il re della Nutella, è il più ricco d'Italia, con una fortuna stimata in 24 miliardi e mezzo di dollari. E quanto emerge dalla classifica dei Paperoni della rivista Forbes, nella quale Ferrero è 32esimo. Fra gli italiani, Leonardo Del Vecchio si piazza alle spalle di Ferrero, seguito da Stefano Pessina. E poi lo sport: il calcio discute ancora del taglio degli stipendi, e anche la Lega Volley femminile è pronta a proporre un taglio agli stipendi di circa il 30% per le giocatrici di A1 e di circa il 40% per quelle che milita in A2 dopo lo stop al campionato decretato ieri per far fronte all'emergenza coronavirus. E poi l'emergenza ferma anche la Formula 1 e il MotoGP. Intanto la Mercedes di Lewis Hamilton presta i propri macchinari al sistema sanitario inglese. Per chiudere, spazio e bellezza: tra stasera e stanotte, vi dicevo, occhi puntati verso il cielo per ammirare la superluna. Ci faremo spiegare da un astronomo qual è il momento e il modo migliore. A dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime le notizie, avete sentito, ho raccontato una sintesi della giornata che è veramente molto ampia, molto articolata. Adesso affrontiamo alcuni dei temi con gli ospiti, approfondiamo alcuni temi per scendere un po' più nel dettaglio di alcuni temi che sono in primo piano. 349-238-6666, sempre il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Allora, dal punto di vista economico, oggi c'è stato, c'è credo ancora in corso, l'Eurogruppo a Bruxelles, cioè il vertice insomma dei ministri dei 27 paesi che fanno parte dell'Unione Europea, per cercare di trovare un faticoso accordo sulle misure da approntare tutti insieme per affrontare questo pesantissimo impatto economico determinato dalla pandemia di coronavirus. E però sono stati vagliati in questi giorni, si è fatto accenno a vari tipi di strumenti possibili, ma l'accordo mi pare, caro Sergio Nava, che ancora sia lungi dall'essere raggiunto, non è vero? Ciao Roberta, sì, devo dire che stiamo andando verso una prima assoluta, cioè un Eurogruppo in videoconferenza che fa una maratona notturna, cioè alle maratone notturne dei vari vertici, Eurogruppi, eccetera, vertici europei eravamo abituati anche nel recente passato, ma in videoconferenza sarebbe veramente una prima assoluta, anche perché le videoconferenze un pregio ce l'hanno ed è quello di accorciare i tempi. Però a quanto pare dovevano c'è stata anche una pausa in mezzo, giusto? Sì, si sono interrotti alle 7 per una pausa di un'ora, alle 8 è stato comunicato che la pausa sarebbe stata di 2 ore, è stato poi comunicato la pausa, insomma, a quanto pare si ritorna a discutere in videoconferenza tra i 27, è un Eurogruppo allargato a tutti i ministri delle finanze, non solo a quelli della zona euro. Si dovrebbe ritornare a discutere intorno alle 10, perché la verità è che i ministri dell'Eurozona e non solo sono spaccati come mai. Se questo era un test per dare, anche nelle parole del presidente stesso dell'Eurogruppo Centeno, comunque di approntare il pacchetto economico più ambizioso di sempre, questo test al momento sta fallendo, Roberta. È talmente ambizioso che non riescono a raggiungerlo. Senti Sergio, ricordiamo che schematicamente ci sono due fronti, no? Il fronte dei paesi del sud, diciamo Europa, tra cui appunto in primis Italia, ma anche Francia e Spagna, e poi dall'altra parte i cosiddetti rigoristi in testa Germania e Olanda, che non vogliono scendere a compromessi sulla questione dei cosiddetti corona bond, no? Sì, allora partiamo dai punti in comune, perché ci sono due piccoli punti in comune, punti sui quali tutti quanti sostanzialmente sono d'accordo. Il primo è la dotazione di 200-210 miliardi alla BEI per dare prestiti alle piccole e medie imprese europee. Il secondo è questo famoso nuovo schema Shore di aiuto alla cassa integrazione in tutti i 27 paesi, lanciato dalla Commissione, che lo finanzierebbe con un appoggio, con delle garanzie degli Stati membri, di 100 miliardi. Su questo sostanzialmente nessuno ha molto da dire. Il problema arriva quando si parla di fondo salva stati o MES, meccanismo europeo di stabilità, contro bond, corona bond o anche covid bond. Perché puoi dirci in modo molto semplice, Sergio, perché pregi e difetti di uno, pregi e difetti dell'altro, in modo molto semplice. Ma allora diciamo che i corona bond o covid bond, che sono spinti dal fronte mediterraneo, Italia, Spagna, Francia, anche se Spagna e Francia, apro e chiudo parentesi, sono più dialoganti rispetto all'Italia e dicono va bene il MES di cui parliamo tra poco, ma a patto che mettiamo una qualche forma di bond comuni, sono sostanzialmente insomma dei finanziamenti garantiti, creando debito comune, mettendo in pool del debito comune da parte di tutti gli stati membri, che a quel punto si farebbero garanti di un'emissione di bond, di obbligazioni legate specificamente al problema della pandemia. Cioè, quindi di fatto si creerebbero obbligazioni comuni con la garanzia del debito degli stati, quindi che avrebbero sostanzialmente un forte rating di X miliardi. Con questi X miliardi andiamo a lottare contro la crisi economica, spendere soldi per la sanità pubblica in Europa, insomma tutto ciò che serve per fronteggiare la pandemia. Il MES o Fondo Salva Stati o European Stability Mechanism invece è un fondo creato nella famosa crisi del 2008-2009, nella recessione di quegli anni, quando l'euro rischiò seriamente di saltare per aria, e ci fu anche il caso greco, per dare delle linee di credito agli stati membri più in difficoltà, in modo che potessero comunque finanziarsi sostanzialmente combattere, diciamo, la crisi economica che si stava vivendo. Quindi di fatto, quando uno stato membro rischiava di fare default, la Grecia è un caso da manuale, di fatto si apriva questa linea di credito, questi finanziamenti europei che poi la Grecia, per poter, diciamo, ottenere, dovette chiaramente sottoscrivere tutta una serie, un memorandum di grandi sacrifici, insomma, no? Ricordiamo tutti la Troica, e con sacrifici, lacrime e sangue, perché chiaramente ci furono tagli alle pensioni, tagli ai sussidi, insomma fu comunque una vera e propria ristrutturazione dell'economia per non fare default. Allora, questo MES, che è spalleggiato da Olanda e Germania, ma anche da Austria e Finlandia, si aprirebbero delle linee di credito pari al 2% del PIL. Per l'Italia sarebbero 35 miliardi circa, neanche tanto a dire la verità. Però il problema sta nelle famose condizionalità, cioè non si vuole una troica in Italia. È chiaro che Germania e Olanda dicono no, ovviamente non ci sarebbero le stesse condizionalità che ebbe la Grecia all'epoca, però vogliamo comunque porre delle condizioni, e le condizioni, per farla in breve, sono poi tornare sul sentiero della stabilità dei conti pubblici, perché l'Italia ha un debito che spaventa un po' tutti. Quindi questi sono i due schieramenti in campo. Guardando anche le cifre, Roberta, però c'è un problema, e cioè che a conti fatti siamo sui circa, al momento, tolta l'ipotesi Corona Bond, sui 500 miliardi. La Commissione stima che per combattere questa pandemia e la recessione che provocherà inevitabilmente serve il triplo della cifra, quindi insomma è un po' poco ancora, ancora un po' poco. E già su questo non si raggiunge un accordo comunque, Sergio, adesso vediamo, dice che appunto questa videoconferenza si inoltrerà nella notte, e chissà che la notte non porti consiglio, no? Tanto per stare, diciamo, sulle cose che conosciamo. Contestualizziamo solo un attimo, Roberta, perché qualora anche questa notte portasse consiglio, questo consiglio comunque verrebbe poi rinviato alla prossima settimana dopo Pasqua, quindi, perché a varare l'eventuale pacchetto dovrebbero poi essere i capi di Stato e di Governo in un vertice europeo straordinario, anche questo in videoconferenza. Stiamo assistendo a un rimpallo incredibile, perché un Eurogruppo a fine marzo passò la palla al Consiglio europeo di inizio aprile, che insomma, ripassò, diciamo, la qui palla non, a questo Eurogruppo. Non c'è tempo da perdere, Sergio, no? Da ogni punto di vista, sia di campo sanitario che quello economico, di affrontare l'impatto economico. E lo si sta perdendo. Si va tutti a gambe all'aria. Grazie Sergio Nava, poi ci aggiornerai. Grazie a te. Grazie caro Sergio. Ciao. E adesso vedo un ascoltatore, Alberto, che scrive: gentile Giordano, i deceduti di oggi non sono, come lei sempre riferisce, tra virgolette, più di ieri, sono semplicemente i morti di oggi. Alberto, ti pregherei di andarti a riascoltare poi il podcast. Io riporto papale quello che dice il capo della protezione civile Borrelli, cioè se ieri erano 620 vittime, oggi sono, per esempio, dico 632, sono 12 oggi in più di ieri. Questo è quello che dice ogni giorno il capo della protezione civile. Dei guariti, quanti sono in più rispetto a ieri? Delle vittime, quante sono in più rispetto a ieri? Dei contagiati, quanti sono in più o in meno possibilmente rispetto a ieri? Quindi ascoltare bene la diretta, riascoltare meglio il podcast. 349-238-6666. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, pagina alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Poi c'è Andrea che già spalanca la finestra, evidentemente dice: l'ho vista nascere la luna sopra Cortina d'Ampezzo, peccato il cellulare non renda. Poi ne parleremo, cercheremo anche di capire con quali mezzi e in quale momento vederla al meglio. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete da tempo, forse l'avete scoperto da poco, comunque meglio tardi che mai, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano ad accompagnarvi, a raccontarvi a fine giornata tutto quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, in particolare purtroppo da parecchio tempo sul coronavirus, ma non solo. E l'importante è che stiate ascoltando da casa o al massimo, se qualcuno dei turni di lavoro particolari, dal lavoro o insomma nel tragitto tra casa e lavoro, lavoro e casa. Abbiamo parlato poco fa con Sergio, il nostro Sergio Nava dell'Eurogruppo, che ancora non riesce a trovare un accordo con i 27 paesi dell'Unione Europea collegati in videoconferenza, un accordo sugli strumenti, sulle misure da mettere in atto per cercare di affrontare tutti insieme, altrimenti l'Unione che Unione è, questo pesantissimo impatto economico determinato dal coronavirus. Probabilmente questa videoconferenza, ci diceva Sergio Nava, andrà avanti anche nella notte, poi magari ancora si rimanderà un altro incontro. Intanto la pandemia continua a fare danni su danni e si pensa che ci sia ancora tempo da aspettare. Adesso ci concentriamo invece sulla questione delle vittime per quanto riguarda l'Italia. Questa epidemia, maledetta epidemia di Covid-19, lo sappiamo, ha fatto moltissime vittime. Oggi il numero era superiore alle 17.000. In particolare tra le persone più grandi, le persone più avanti negli anni. E tragedia nella tragedia è quella che si è consumata in alcune case di riposo in Italia, dove il coronavirus ha fatto veramente, il caso di dire, stragi tra le persone più fragili. Ed è per esempio c'è il caso del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che è la più grande struttura geriatrica in Italia, anche una lunga storia alle spalle. E su questo, sul caso del Pio Albergo Trivulzio, dove ci sono state nell'ultimo periodo 27 vittime, 27 persone che sono morte, la Regione Lombardia ha deciso di avviare una commissione di inchiesta. Intanto saluto su questo la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Allora, io farei sentire intanto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che cosa ha detto oggi a proposito del Pio Albergo Trivulzio e di questa commissione. Io credo che le situazioni vadano, prima di essere valutate, indagate e chiarite. Noi faremo tutta la dovuta luce su queste situazioni. Non è che un fatto di per sé stesso debba essere letto in un certo modo. Io credo che sia necessario valutare, indagare e capire e individuare se ci fossero delle responsabilità. Non ne abbiamo idea e non ne siamo coscienti. C'è una commissione che è proprio finalizzata a capire cosa sia successo. Che cosa sarà successo, Raffaella Calandra? Roberta, purtroppo i numeri, almeno quelli in questo momento, ci dicono che nel Pio Albergo Trivulzio, come in molte altre strutture, ahimè, per anziani, sia in Lombardia soprattutto, ma anche in altre parti d'Italia, c'è stata innanzitutto quella che, come tu prima dicevi, non può che essere definita una strage, perché tra la residenza di Mediglia, quella di Borromeo e altre, ci sono stati 70 morti, 50 morti, 40 morti, insomma, cifre davvero impressionanti in pochi giorni. Il virus è entrato nonostante le chiusure che da subito ci sono state di queste strutture rispetto all'esterno, e il tema ora è verificare se i piani che la Regione Lombardia innanzitutto aveva stabilito anche per queste regioni, per queste strutture, fossero sufficienti, se erano state applicate nel modo adeguato. E sotto accusa in parte finisce anche una delibera della Regione che aveva invitato alcune di queste residenze ad accogliere alcuni pazienti Covid, anche se in realtà da più parti si fa notare come questa stessa delibera sia rimasta in gran parte inapplicata, perché considerata da subito un errore, anzi più persone l'hanno definita, certo, un fuoco in un pagliaio. E c'è anche un altro aspetto da verificare, cioè l'aspetto dei dispositivi per questi operatori, tanto è vero che come il tema è successo anche per le strutture ospedaliere, che si sono trovate prive di mascherine, di protezioni, ecco, all'interno di queste strutture ugualmente c'era una forte carenza, e anzi ci hanno raccontato ci sono stati anche dei sequestri di mascherine, cioè anche a loro sono state sequestrate mascherine per portarle negli ospedali, e questo potrebbe aver ulteriormente aggravato la situazione con personale che quindi non aveva alcuna protezione. Ma tra l'altro, Raffaele, adesso riporto, leggo la risposta che hanno dato dai vertici del Pio Albergo Trivulzio. Dal 1 al 7 aprile, si legge, al Pio Albergo Trivulzio sono deceduti 27 ospiti che presumibilmente avevano contratto il Covid-19 e 10 con altre patologie. Lo rende noto la stessa struttura milanese, che ha oltre 1000 posti letto, in un comunicato in cui la direzione assicura che a marzo non c'è stata alcuna strage nascosta. Senti, però tu, Raffaella, hai intervistato il presidente dell'associazione che raggruppa 400 case di riposo, insomma residenze sanitarie assistenziali. Essenziali, esatto. No, in Lombardia. Lo vogliamo sentire? Sì, Luca Degani di Uneba. Sentiamo. Noi abbiamo avuto un sequestro di 70.000 mascherine che sono state distribuite invece a strutture ospedaliere. Ci volevano sicuramente fin da subito le stesse attenzioni di distribuzione, ma anche di protocolli degli operatori ospedalieri. Alcuni dipendenti hanno anche presentato degli esposti, non siamo stati per tempo informati dei primi contagi. Se è stato fatto, ha sbagliato. Io mi sono trovato in molte RSA che hanno dichiarato la sintomaticità dell'ospite, ma che poi, non potendolo portare al pronto soccorso perché non sarebbe stato accettato, c'è stato un ritardo sicuramente nel fare il tampone. Noi non siamo forse anche stati capaci fin da subito di far capire che l'anziano era il vero soggetto a rischio. Io mi sono trovato nella condizione, che sono quasi in autodenuncia, di far acquistare mascherine facendole passare come tessuti, perché se le avessi acquistate come mascherine mi sarebbero state sequestrate. Ecco, Raffaella. Cioè, il tema anche qui è un po' quello dei tamponi, come c'è stato un po' ovunque, cioè in queste strutture dove però ahimè ci sono persone particolarmente fragili, come abbiamo anche sentito, l'impossibilità di attuare velocemente un tampone rendeva difficile anche stabilire l'isolamento di alcuni pazienti rispetto ad altri pazienti, e quindi il contagio ha potuto circolare molto velocemente. Ricordiamolo che purtroppo per questi pazienti per molto tempo non è stato possibile avere il ricovero in pronto soccorso, perché erano intasati anche i pronto soccorso, insomma, intasati, no? Quindi, esatto. Raffaella, adesso, sì. Già una decina i fascicoli aperti soltanto dalla Procura di Milano, che hanno ricevuto denunce sia da operatori che anche da familiari di vittime. Vediamo insomma come procederanno queste inchieste, commissioni d'inchiesta, ci vorrà del tempo naturalmente come sempre, capiremo se emergono delle responsabilità o meno. Grazie Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta, grazie a te. Ciao. Intanto vedo che è intervenuto nella registrazione, quindi questa è un'anticipazione di Porta a Porta di questa sera, il ministro degli esteri Di Maio dice, a proposito della fase 2 di cui vi parlavo brevemente nella sintesi della giornata, dice: dobbiamo stare molto attenti alla fase 2, cioè quella un po' della ripartenza graduale, se sbagliamo i tempi torniamo in lockdown, cioè nel coprifuoco totale, e ricominciamo da capo. E poi ha detto: sta calando un po' la curva dei contagi, ma non dobbiamo cominciare a considerare quelle regole di contenimento facoltative, aggiunto, dicendo ai cittadini di comportarsi con massima responsabilità in questa fase, restando a casa e rispettando le regole che salvano la vita. Mentre Conte, in questi istanti, che appunto è collegato, dovrebbe essere collegato in videoconferenza con l'Eurogruppo, con questo vertice a Bruxelles, comunque naturalmente è in costante aggiornamento, dice Conte: ho sentito nel pomeriggio la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel corso della conversazione, a quanto si apprende, ha ribadito Conte la necessità di una risposta europea coraggiosa, a partire dagli Eurobond, che come avete sentito prima Germania, Olanda e paesi rigoristi non vogliono, dice ancora Conte, l'Italia non accetterà compromessi al ribasso. C'è un ascoltatore che dice: non azzardatevi a firmare il MES, insomma vedremo un po' se nella notte si riesce a raggiungere almeno una bozza d'intesa, visto che, come diceva il nostro Sergio Nava, in realtà poi rimanderanno ancora un altro vertice, un altro incontro, e chissà quanto avanti andrà questa faccenda quando il tempo ormai corre, non basta più, insomma. Ancora i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Abbiamo già la viabilità e quindi aggiorniamo i pochissimi, le pochissime che per ragioni di esigenze particolari o di lavoro sono su strade e autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime notizie, proseguiamo allora lungo il percorso di Effetto Notte. Sono qui per voi e qui resto, questo deve essere un presidio di informazione per voi e anche di compagnia, di accompagnamento e anche possibilmente antistress e antivirus, perché come dico sempre, più ascoltate Effetto Notte, più vi informate e più riuscite ad evitarlo. Adesso ci concentriamo anche un po' su paesi all'estero, mentre chiede un ascoltatore: scusa, avete per caso affrontato l'argomento 5G nei giorni passati? Sì, a parte Effetto Notte, ma anche in altri programmi qui di Radio 24. Allora, ci colleghiamo subito con la Gran Bretagna, dove c'è Alessandro Logroscino, corrispondente dell'ANSA dal Regno Unito. Buonasera Alessandro e grazie della disponibilità. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, la notizia forte che è arrivata ieri, al di là appunto della situazione dei contagi e delle vittime anche in Gran Bretagna, è quella che il primo ministro Boris Johnson, che già non stava bene nei giorni precedenti, insomma, è stato improvvisamente ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Però si sono rincorse varie voci anche oggi, no? C'è chi dice: ma no, ha passato una notte tranquilla, non ha bisogno del ventilatore. E invece qualche altra voce dice: no, invece è proprio in terapia intensiva, ha bisogno di un aiuto alla respirazione. Insomma, qual è la versione ufficiale, Alessandro? Sandro. Allora, la versione ufficiale è che il primo ministro Boris Johnson due notti fa, un po' all'improvviso, poco dopo che era stato trasmesso in televisione un discorso straordinario, nel senso che capita molto di rado, un discorso alla nazione della regina, nel quale la regina ha cercato un po' di incoraggiare il paese, di spronarlo a comportarsi con disciplina e nello stesso tempo, insomma, a guardare con una certa speranza al futuro. Bene, pochi minuti dopo Downing Street ha informato che il primo ministro era stato trasferito in ospedale. Johnson, come dicevi tu, era già da una decina di giorni alle prese con un contagio da coronavirus, che inizialmente era stato indicato come lieve. Si era messo in isolamento, ma i sintomi non erano passati e c'era stato evidentemente un peggioramento, era andato in ospedale. Si era detto che fosse per degli esami, così, una situazione sotto controllo, ma nel corso della giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, improvvisamente la situazione sembra peggiorata, anzi è sicuramente peggiorata, perché è stato portato in serata in terapia intensiva, trasferito in terapia intensiva nell'ospedale St. Thomas di Londra, dove è ricoverato. Cosa esattamente gli stiano facendo in terapia intensiva, naturalmente, è coperto da un certo riservo. Quello che dice Downing Street è che lui ha dei problemi evidentemente respiratori, respira, ha problemi, se no non l'avrebbero portato in terapia intensiva evidentemente, però non è stato attaccato a un ventilatore, cioè alla ventilazione meccanica. Che è una procedura molto invasiva e anche molto preoccupante. Riceve dell'ossigeno con delle maschere, con dei respiratori, diciamo così, gli viene somministrato dell'ossigeno per aiutarlo a respirare, ma sarebbe in condizione di coscienza e anche, dicono da Downing Street, diciamo, tutto sommato, per come si può stare in terapia intensiva, in condizioni discrete. Ora, questa è naturalmente la versione ufficiale, le voci a cui facevi riferimento tu non mancano, si rincorrono da ieri, c'è chi dice che appunto ci sono molti sospetti che possa non essere esattamente così. Tra l'altro ricordiamo, scusami Alessandro, ricordiamo che purtroppo Boris Johnson, è brutto dirlo nel momento in cui si trova in questa situazione, però è vero che fino a qualche giorno fa, insomma, lui all'inizio era stato negazionista come anche Trump, poi aveva detto rendetevi conto che ognuno dovrà avere almeno un lutto in famiglia per l'epidemia, ma dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge, aveva questa idea dell'immunità di gregge, poi ha capito un po' tardi che in realtà non era possibile, come anche la Svezia oggi abbiamo scoperto, che si rende conto che non può lasciare tutto aperto e aspettare che le persone si ammalino e si immunizzino, perché poi ci sono tante vittime e un sacco di problemi. Adesso però si trova in questa situazione Alessandro e ha ricevuto comunque tante espressioni di solidarietà, di stima, di affetto, no? un po' da tutti, anche a livello internazionale. Il problema è che in questo momento, però, nel momento in cui il paese attraversa un'emergenza e una crisi così forte come dovuta alla pandemia di Covid-19, chi è che quindi guida il paese in questo momento? Insomma, diciamo, per cominciare va detto che in realtà la faccenda è stata, insomma, ci sono stati diversi anche errori di interpretazione. Certamente gli inglesi hanno avuto un approccio iniziale, speravano di poter essere più gradualisti nell'approccio. Non è vero che Johnson abbia mai negato la gravità della situazione, non ha mai fatto dichiarazioni come quelle di Trump, e anche l'immunità di gregge l'hanno tirata fuori alcuni scienziati britannici che consigliavano il governo. Lui non ne ha mai parlato personalmente, si è trovato un po', si è affidato ad alcuni di questi scienziati che per un certo periodo hanno coltivato questa illusione. È vero, come dici tu, che questa illusione si è rivelata, diciamo, impraticabile, perlomeno nella fase, diciamo, di picco dell'epidemia. Tra l'altro, allora, oggi Alessandro c'è stato anche un picco oggi di contagi o di vittime, assolutamente. Assolutamente, c'è stato un picco di morti, oggi hanno conteggiato 786 morti, che è un numero molto elevato, credo che sia il paese europeo con in cifra assoluta con più morti. Certo, ci sono paesi come l'Olanda o la Svezia, loro sì hanno insistito su questa idea di poter evitare la chiusura. E quindi in termini poi proporzionali la Svezia probabilmente è una situazione, rischia di andare incontro a una situazione persino peggiore a quella di paesi più grandi. Però insomma, naturalmente la Gran Bretagna è un paese grande, c'ha una situazione ancora di grossa difficoltà sotto il profilo, diciamo, dell'incremento del numero dei morti. Si è un po' stabilizzato quello dei contagi, ma non è ancora arrivato al picco, e quindi è chiaro che in una situazione del genere il governo, chi guida il governo è importante. Johnson è una personalità senza dubbio controversa, molto carismatica, però è anche un molto uomo carismatica, di carisma, eccetera. Però non c'è un sostituto all'altezza, diciamo, chiaro, almeno all'altezza. Del carisma. Ecco, so, per chiudere, perché ci dobbiamo lasciare purtroppo, Alessandro, che adesso il vertice del governo c'è il 46enne ministro degli esteri britannico, che è Dominic Raab. Ma comunque avremo modo di aggiornarci nei prossimi giorni, anche per seguire, insomma, l'andamento del decorso della malattia di Johnson. Grazie intanto ad Alessandro Logroscino da Londra, grazie mille. Lanza. Grazie. Ciao Alessandro, buon lavoro. Ci colleghiamo invece adesso a New York con il nostro Marco Valsania. Caro Marco, buonasera. Allora, leggo che lo Stato di New York, dagli ultimi dati, con i suoi 138.836 casi di coronavirus, supera l'Italia. In un giorno ci sono stati un record di morti, 731, i casi di contagi sono quasi 139.000 nel solo Stato di New York, appunto, come dicevo. E si parla di 500.000 di newyorkesi che hanno perso il lavoro, questo è l'allarme del sindaco di New York de Blasio. E poi è arrivata anche un'altra notizia, riportata dal New York Times, secondo la quale il presidente americano Trump fu messo in guardia sui rischi già il 29 gennaio sull'impatto economico e su anche la possibilità di molte vittime e di molti malati. È vero, Marco? Sì, è così, e diciamo continuano a filtrare in questo clima molto teso e di grandi polemiche, al di là dell'emergenza, diciamo, sanitaria e economica che comunque domina, ma le polemiche filtrano. È emerso, il New York Times ha rivelato, che uno dei più stretti consigli del presidente, il falco commerciale Peter Navarro, era stato il più alto funzionario, in realtà, nella stretta cerchia dei top advisor di Trump, a metterlo in guardia già a fine gennaio, il 29 gennaio, da rischio, vedendo, diciamo, analizzando la situazione in Cina e l'evoluzione dell'epidemia, della pandemia, mettere in guardia Trump che il rischio di una pandemia negli Stati Uniti era elevato, citando proiezioni appunto che potevano provocare milioni di viti, di infezioni, milioni di malati negli Stati Uniti, anche centinaia di migliaia di vittime. Una proiezione citata dallo stesso Navarro, appunto il 29 gennaio, parlava di 500.000 di potenziali vittime negli Stati Uniti e migliaia di miliardi di costi economici a causa di dei rovesci dell'economia, della paralisi oggi Trump ha detto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto l'OMS ha sbagliato, l'OMS ha sbagliato, è finanziata in larga parte dagli Stati Uniti e per qualche motivo è sinocentrica, cioè dalla parte della Cina. Fortunatamente, dice Trump, ha twittato, respinto il loro consiglio di tenere aperti i confini alla Cina dall'inizio, perché dare una raccomandazione così sbagliata se la prende con l'OMS. Marco, oggi Trump? Sì, Trump, diciamo, insomma, Trump fin dall'inizio ha giocato e continua a giocare un po' la doppia carta. Da un lato quella così del presidente di guerra, diciamo, in cui si presenta come appunto decisionista, come capace di gestire l'emergenza, dall'altra però fortemente, e quindi cerca di generare, diciamo, un'unità del paese, dall'altra però invece quello dell'aggressivo ultranazionalista e ultra difensore, diciamo, della propria azione, a scapito di organizzazioni multilaterali, a scapito anche di avversari politici, e quindi una leadership che è di fatto sotto assedio, quella di Trump, sotto assedio per i numeri che continuano a crescere comunque dell'infezione, comunque delle vittime, e per appunto gli atteggiamenti, ricordiamo il suo così ministro della Marina che ha insultato il capitano della portaerei, che aveva denunciato la mancanza di prevenzione sulla portaerei. Questo segretario della Marina è andato sulla portaerei dopo aver licenziato il capitano e l'ha definito uno stupido, e ha definito stupidi anche tutti i marinai. Oggi ha rassegnato le dimissioni, ma il suo comportamento riflette questo clima di grande confusione, tensione e di rabbia che anche dentro l'amministrazione, che fatica Trump, che fatica a presentare una leadership, diciamo, convincente. È chiaro il momento di grande difficoltà, ma poi avremo modo di collegarci continuamente nei prossimi giorni. Grazie al nostro Marco Valsani da New York. Ciao Marco, un abbraccio a forte. Voi. Ciao Marco. Buona serata. Non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. E prendiamoci un po' di respiro da questo maledetto virus che appunto invade in questo modo così terribile, stravolgente le nostre vite. Occhi al cielo per vedere qualcosa di bello, appunto la superluna più spettacolare del 2020. La vediamo quindi più vicina, appare più luminosa, almeno del 15%, ma ci facciamo spiegare meglio da chi se ne intende. Sandro Bardelli, ricercatore astronomo dell'Osservatorio Astronomico di Bologna. Professor Bardelli, buonasera. Buonasera. Ma già adesso io sono blindata qui nello studio, ma se mi affaccio vedo già questa superluna o è più tardi? No, c'è già, nel senso che è sorta alle 19, basta avere la finestra o il balcone verso ovest. Verso ovest, quindi una bussola possibilmente in mano per capire dove è ovest. Verso est. Verso est. Verso poi est. A ovest c'è un altro spettacolo che dopo vi dirò. Ah, ci dica. Quindi sì, prego. Verso est adesso sta sorgendo la luna, è sorta intorno alle 19 e sarà una luna abbastanza più brillante, sarà l'8% più grande e sarà il 15% più luminosa, perché noi sappiamo che la luna ha un'orbita ellittica, quindi c'è un apogeo, cioè quando la luna è più distante dalla Terra, e c'è un perigeo quando la luna è più vicina alla Terra. Ecco, noi abbiamo in questo momento la Luna che è appena passata intorno alle 19:10 per il suo perigeo a 356.000 chilometri ed è allineata, c'è un allineamento tra il Sole, la Terra e la Luna, e quindi noi la vediamo come Luna piena, e quindi abbiamo la combinazione di questi due effetti. Fino a che ora sarà superluna così bella? Beh, diciamo tutta la notte, anche quindi abbiamo tutta la comodità possibile di guardarla. Quindi per i più resistenti o più romantici o anche i più insonni, diciamo, si può stare anche tutta la notte a guardare questa luna, visto che almeno dalla finestra un po' di bellezza la possiamo vedere. E c'è un modo anche, a parte il tempo, di poterla vedere, per vederla meglio, professor Bardelli? No, non c'è un modo, anche perché non è esageratamente più grande. Non confondiamo il fatto che sempre la luna quando è appena sorta o sta per tramontare, quindi vicino alla linea dell'orizzonte, sembra più grande, ma quello è un effetto ottico. E la luna sarà un po' più grande, quindi l'8%, non ci aspettiamo grandi cose. Però quindi è pur sempre una superluna, insomma, in questo momento ci fa bene. Ci dica, siccome tra poco purtroppo dobbiamo lasciarci, professor Bardelli, qual era l'altro spettacolo che ci voleva suggerire? Guardiamo dall'altra parte del cielo, quindi verso ovest, quindi la luna è sorta verso est alle 19 e guardiamo verso ovest. Verso ovest c'è un puntino estremamente luminoso che adesso sta per tramontare, ma domani lo possiamo vedere dalle 19 in poi, che è il pianeta Venere. Pianeta Venere che ha appena lasciato l'ammasso delle Pleiadi, infatti con un binocolo o un cielo particolarmente buio possiamo vedere sotto sei stelline che sono le Pleiadi, le sette sorelle come vengono chiamate. Ecco, lì vediamo questo pianeta. A sinistra, appena a sinistra, vediamo le tre stelle allineate della cintura di Orione e ancora più a sinistra vediamo la stella Sirio, che è la stella più brillante di tutto il cielo. Tanta bellezza del cielo, grazie professor Sandro Bardelli, grazie infinite. Prego. Grazie, un abbraccio a lei. Arrivederci. E alle stelle, alla luna e ai pianeti. E a questo punto ci sentiamo brevemente alle 22.